non conosco personalmente l'opera dello psicoanalista cattolico Domenico Barilà, seguace, mi si dice, della scuola di Alfred Adler. Anzi, vi confesso che fino a poco fa ignoravo che potesse esistere uno psicoanalista cattolico, avendo le competenti autorità ecclesiastiche solennemente condannato la psicoanalisi sin dai suoi primi passi e senza distinzioni di scuola, ma per questo rimando all'intervento precedente. Comunque, pur non conoscendolo, sono sicuro che si tratti di uno studioso pieno di buone intenzioni. Aprendo infatti dal Corriere della Sera del 14 scorso, taglio basso in pagina 13, che nel suo ultimo libro, Per un posto al sole, pubblicato dall'editoriale San Paolo, costui si è provato a spezzare una lancia contro la tradizionale condanna ecclesiastica della pratica della masturbazione. Non al punto di proclamarne la liceità assoluta, naturalmente, perché c'è un limite a tutto, ma quel tanto che basta per tracciare almeno una distinzione, virgolette. Se il ragazzo, ragazzo soltanto perché il problema dal punto di vista morale della morale chiesastica non so perché riguarda solo i maschietti, se il ragazzo utilizza la masturbazione come premessa a un sano rapporto con l'altro sesso, allora masturbarsi non crea alcun danno. Se invece la masturbazione è un gesto fine a se stesso, capace di appagare totalmente, allora non solo ostacola nell'adolescente lo sviluppo di un sentimento comunitario, ma diventa un serio pericolo per la sua salute psicologica. Fine della citazione. Si tratta, insomma, di una citazione, di una distinzione che si pone tra una masturbazione, come dire, propedeutica, che è ammessa se non incoraggiata, e una masturbazione fine a se stessa, che è psicologicamente dannosa. È una distinzione a cui personalmente non avevo mai pensato, ma si può fare tutto. Immagino che i fautori del secondo corno del dilemma siano quei giovanetti che, pur godendo di ogni possibile libera espansione della propria sessualità, pur ricevendo dalle coetanee, dalle signore le offerte più allettanti, si incaponiscono nella pratica solitaria per loro scelta o vizio. Io non saprei se questa situazione possa essere etichettata come un ostacolo allo sviluppo del senso comunitario, ma che sia psicologicamente un po' inquietante, sono d'accordo. E poi si sa, quello che importa è cominciare. Una volta definita una casistica la si può sviluppare. Il Barilà, il cui libro è dedicato agli educatori delle parrocchie, ha fatto del suo meglio per aggirare il tradizionale atteggiamento pretesco verso il fenomeno. Probabilmente ha pensato che un ammonimento che riguardi i rischi di un difficile inserimento nella comunità funzioni meglio come elemento dissuasorio e abbia una maggiore dignità scientifica della vecchia minaccia di diventare ciechi. Insomma, è uno studioso di buona volontà. Peccato che in questa manifestazione di buona volontà non si sia accorto di aver scoperto, come si usa dire, l'acqua calda, insomma. Perché lui parla in termini di danni e vantaggi, naturalmente. Nel presupposto che un'azione utile o non dannosa sia buona e un'azione dannosa sia cattiva. Poi fa dipendere la valutazione dal contesto in cui l'azione ha luogo e adotta come criterio discriminante per descrivere il contesto la volontà del soggetto che agisce. Quando lo fa con il fine di, allora va bene, se no no. E conclude implicitamente che l'azione è dannosa se il soggetto vuole che lo sia. E non cessanti questo ci porta sul piano della morale. E sul piano della morale? Sul piano della morale, dire che la bontà o la malvagità di un'azione dipende dal contesto e specificamente dalla volontà di chi la compie è proprio la più totale delle ovvietà, e saranno 2500 anni più circa che l'umanità ha rinunciato a individuare delle azioni dotate di un valore assoluto, delle azioni in sé buone o cattive. Persino il valore morale dell'omicidio dipende dalle intenzioni e dalle circostanze. Tanto è vero che è ammesso in un numero incredibile di casi ed è accanitamente propugnato in altri da persone rispettabilissime, o almeno che si considerano tali, e sarebbe strano se non ne dipendesse anche quello della masturbazione. È vero che la dottrina corrente negli ambienti ecclesiastici, in certi ambienti ecclesiastici, è sempre stata piuttosto incline a considerare la masturbazione e gli altri comportamenti sessuali non strettamente coniugali quanto di più vicino esista al male assoluto e in generale una cosa assai più grave dell'omicidio. Ma queste dovrebbero essere cose del passato, no? A meno che il libro del benintenzionato psicologo Barilà, che in effetti è stato piuttosto contestato negli ambienti specializzati, non sia la spia involontaria di come quel passato, nonostante tutto, sia ancora presente.